Referendum svizzero, preoccupazione a Berna per l'impatto economico. L'inflazione cresce dello 0,7% in novembre, Confindustria stima un rialzo della produzione industriale dell'1%. Mentre sale la tensione tra Iran e comunità internazionale, il negoziato perde un protagonista, il direttore della IEA, El Baradei, termina il mandato. Influenza, primo caso di mutazione in Italia, il paziente è guarito, non c'è da preoccuparsi, dice il ministero. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Dunque ancora in apertura il referendum che si è svolto ieri in Svizzera e che ha bocciato la costruzione di nuovi minareti. Nonostante sia espressione della volontà popolare, la decisione di vietare la costruzione di nuovi minareti in Svizzera suscita in me grande preoccupazione. Sono le parole della presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Luis Maria de Puig, commentando appunto i risultati del referendum. Preoccupazione viene espressa anche dal Vaticano, che lo ritiene un duro colpo alla libertà religiosa e all'integrazione. Ma nei cantoni invece le preoccupazioni sono ben altre. Il 7%, cioè 14,5 miliardi di franchi del totale delle esportazioni svizzere, è rivolto ai paesi a maggioranza musulmana. E dunque, quale sarà l'impatto economico che il paese dovrà affrontare ora che con un referendum è vietata, e l'articolo entra nella Costituzione elvetica, la creazione di nuovi minareti? Cristina Carpinelli lo ha chiesto a Kati Ricklin, responsabile in Svizzera proprio del Dipartimento federale degli affari esteri. È chiaro che noi abbiamo molti contatti con i paesi arabi, con l'Arabia Saudita, con gli Emirati e tutti quei paesi nell'est che sono molto importanti anche per la nostra economia, per il nostro per la nostra piazza finanziaria. Si può quantificare il giro d'affari che ruota attorno ai paesi a maggioranza musulmana che la Svizzera porta avanti? Ecco, 14 miliardi di franchi e ok, quei paesi non sono paesi religiosi, diciamo, gli Emirati, Qatar, tutti quei paesi là. Comunque bisogna stare molto attenti, bisogna adesso spiegare. Quindi voi avete già messo in atto un programma di informazione attraverso le ambasciate e altre organizzazioni? Sì, l'abbiamo preparato, è una situazione difficile e per me anche inutile dove ci siamo messi dentro. Sì, diciamo che costava meno fare dei minareti, ecco. Ah sì, sì, è vero. E tra l'altro in tutto questo c'è un côté tutto italiano. Come sapete, ieri la Lega ha proposto di inserire la croce nella bandiera italiana. C'è una reazione da parte del ministro della difesa Ignazio La Russa. Dice: far discendere da questo un cambiamento della bandiera lo può fare solo chi non la ama, non è nemmeno una provocazione, è solo una battuta che può fare chi non capisce che le bandiere non sono bandierine e che se ne possa sventolare una diversa ogni giorno. E noi continuiamo a parlare di economia e di mondo arabo, spostandoci però a Dubai, dove oggi hanno riaperto i mercati dopo 4 giorni di pausa e ad altrettanti giorni dall'annuncio delle difficoltà finanziarie di Dubai World. L'inviato del Sole 24 Ore, Angelo Mincuzzi. Le borse di Dubai e di Abu Dhabi in caduta libera, contrattazioni nervose, ansia per ciò che potrà accadere nelle prossime ore. Dopo 4 giorni di chiusura per le festività musulmane, un'ondata di vendite si è abbattuta sui mercati del Golfo Persico, che temono un default di Dubai. La borsa di Dubai ha perso il 7,3%, più pesante il bilancio di quella di Abu Dhabi, crollata dell'8,3%. Il primo segnale che sarebbe stata una mattina drammatica si è avuto poco prima dell'apertura dei mercati, quando Nakheel, la società immobiliare del gruppo Dubai World, ha chiesto la sospensione delle contrattazioni dei suoi bond quotati alla borsa di Dubai. Un brutto inizio per il mercato, soprattutto il segno che la società non è in grado di ripagare il bond da 3 miliardi e mezzo di dollari che scade tra sole 2 settimane. Tra gli operatori finanziari di Dubai si vive un'ansia crescente, soprattutto per le scarse informazioni al mercato da parte dell'autorità dell'Emirato. In profondo rosso le quotazioni delle banche di Abu Dhabi, che hanno prestato soldi a Dubai, mentre il colosso degli operatori portuali DP World ha perso quasi il 15%. A peggiorare la situazione, le ultime stime della società di investimento ESG Hermes, secondo la quale il debito complessivo di Dubai potrebbe essere non di 80 ma di 150 miliardi di dollari. Restiamo a parlare di economia, ma per dati che in questo caso riguardano l'Italia, e sono l'inflazione e la produzione industriale, almeno quella stimata da Confindustria. Ci colleghiamo in diretta col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Costo della vita in crescita a novembre con un più 0,7% su base annua contro lo 0,3% di ottobre. Mese su mese l'incremento in Italia è dello 0,1%. A trainare l'incremento dei prezzi sono soprattutto i beni energetici, più 1,5% congiunturale, con la parte del leone affidata alla benzina verde e al gasolio per riscaldamento. In aumento anche i prezzi delle assicurazioni e dell'oreficeria. Anche la zona euro mostra lo stesso andamento del nostro paese, con l'inflazione che torna in terreno positivo dopo 6 mesi. Si consolida intanto a novembre il recupero dell'attività produttiva dell'industria italiana, a riferirle Confindustria nella consueta indagine rapida, più 1% novembre su ottobre. Si resta tuttavia molto lontani, Simone, dallo stato pre-crisi, con livelli inferiori del 20%. Vincenzo, nel frattempo oggi tu ti trovi alla Camera, ricomincia il lavoro sulla finanziaria. Sì, è così, questo in pratica è il giorno del vaglio di ammissibilità in commissione bilancio degli oltre 2.400 emendamenti presentati al testo. Tra le proposte di modifica di fonte governativa ricordiamo misure sul welfare, tagli dei costi della politica, in particolare sul numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali, stretta sugli stipendi di quelli regionali. Si tratta di interventi che pesano per 8 miliardi, di cui circa la metà verrà dal gettito dello scudo fiscale. Per quanto riguarda i tempi, governo e maggioranza puntano a varare la manovra entro metà dicembre. Il testo passerà poi al Senato per il via libera definitivo, atteso come sempre prima di Natale. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti, e noi passiamo alla cronaca con il maltempo, delle difficoltà in Liguria. Vi abbiamo parlato nell'edizione delle 12, insomma ci sono stati allagamenti un po' in tutta la regione, ci sono difficoltà anche nel nord-est. È uscita adesso un'agenzia, è stata appena battuta, oltre 100 mm di pioggia sono caduti nelle ultime 6 ore nel Pordenonese e nell'Alto Friuli, dove stamane una frana ha interrotto la strada regionale 50. Difficoltà anche a Venezia con l'acqua alta. Ci colleghiamo col capoluogo veneto, con Silva Menetto. Silva. Buongiorno, infatti è stata una mattina di stivaloni e acqua alta. I veneziani per fortuna lo sapevano da 2 giorni, anche grazie al servizio di SMS del comune. Comunque l'allerta è scattata per tutti alle 5 di questa mattina con le sirene. La punta massima verso le 9, 1,31 m sul medio mare, il che significa che mezza città è andata sott'acqua. Per farvi un esempio, se il MOSE, il sistema di paratie mobili, fosse attivo, sarebbe entrato in funzione in questo caso. Difficoltà ci sono state un po' ovunque, perché le passerelle non erano tutte posizionate, soprattutto nella zona di San Marco, che è la più bassa, dove non vengono proprio messe al di sopra del metro, perché altrimenti galleggerebbero. Intanto le previsioni parlano di un'altra punta di 1,15 m per domani mattina, il che significa il 35% della città sott'acqua. Come dicevate, maltempo in tutto il resto della regione, con pioggia battente per tutta la mattinata, e sull'arco alpino è arrivata la neve sopra i 1,500 m, così tirano un sospiro di sollievo anche gli operatori turistici, che purtroppo avevano visto con le alte temperature squagliarsi la neve di novembre. Le temperature sono in diminuzione e forse la neve arriverà anche alle quote più basse. Per il momento è tutto. E grazie Silva Menetto. Quando arriva la pioggia, questo soprattutto nelle grandi città, trovare un taxi, come sapete, è impossibile. Forse per ovviare anche a questo parte un nuovo servizio oggi a Roma. Ad oggi funzionerà tutto via SMS, senza passare dalle attese spesso lunghe dei call center. L'Unione Radio Taxi d'Italia e la cooperativa romana 3570 hanno coniato uno slogan d'effetto: il taxi del futuro. In effetti la promessa di Taxi Now, questo il nome del servizio, è impegnativa. Niente più attese al centralino. Da oggi nella capitale si può chiamare un taxi grazie ad un software di riconoscimento vocale scaricabile sul telefonino. Pochi istanti dopo aver pronunciato l'indirizzo, un SMS fornirà sigla del taxi in arrivo e tempo di attesa. Tra le nuove opzioni anche la possibilità di prenotare via SMS, pagare in anticipo online e scegliere l'auto. Siamo i primi al mondo ad usare questo sistema, dice Loreno Bittarelli, presidente dell'associazione che riunisce 12.000 auto in Italia. Vogliamo far dimenticare scandali e truffe. Sicuramente uno degli obiettivi che vorremmo raggiungere è quello di riuscire a dare una percezione diversa all'opinione pubblica della categoria dei tassisti rispetto a quella che è maturata fino ad oggi. Noi vogliamo evitare che per colpa di pochissime persone poi debbano pagare un prezzo altissimo tutti i tassisti, tutta la categoria. Le novità da venerdì saranno attive anche a Milano, Firenze e Bologna, e da gennaio in altre 30 città. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Passiamo dall'innovazione a qualcosa di ultra tradizionale. La RAI ha vinto il periodo di garanzia autunnale, quello su cui si basano gli investitori per le tariffe pubblicitarie, proprio puntando sulla tradizione. Per questo la RAI del futuro rischia di essere sempre più, diciamo così, in bianco e nero. Rai 1 rispolvera Canzonissima. Che bella festa, che splendida festa, tutti fanno per noi. Se l'idea era nell'aria già da qualche settimana e si cominciava a fare il nome di Raffaella Carrà, il direttore Mauro Mazza ora svela le carte. Nel tuo letto caldo. È andato così bene Gianni Morandi che a lui potrebbe essere affidato lo show del prossimo anno del sabato sera della Lotteria Italia, proprio con la formula dello storico spettacolo: canzoni, balletti, grandi personaggi. Speriamo anche l'eleganza e la professionalità di un tempo. Vittorio De Sica. È un onore per me, signorina Carrà, di esserle vicino. I miei capelli bianchi mi permettono di farle tutti i miei complimenti. Intanto Mazza pensa al teatro di Edoardo in prima serata come un tempo e su Rai 2 torna Paolo Limiti il sabato pomeriggio, effetto nostalgia, mentre Mediaset cerca di puntare sempre più al target commerciale, quello Nielsen che a differenza di Auditel si concentra sul range 15-64 anni e Sky spinge l'acceleratore sui più giovani. Fox comincia ora a trasmettere le serie americane in lingua originale con sottotitoli una settimana dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Puntando sulla tradizione, la Rai ha battuto la concorrenza nel periodo di garanzia autunnale con uno share complessivo del 42-60% in prima serata e del 40-30% nel daytime. Ma sul lungo termine pagherà questa strategia? Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in televisione per parlare di Britain's Got Talent, l'X Factor inglese. Come sapete, parliamo di una persona che stupì il mondo, Susan Boyle. Ora il primo CD dell'ex brutto anatroccolo del talent show britannico, con 410.000 copie vendute, è diventato l'album di debutto con le maggiori vendite nella prima settimana nella storia delle classifiche inglesi. Non solo, il disco è anche primo in classifica per le prenotazioni nei 14 anni di storia di Amazon.com.